Capitolo 6. Visite di amici. Le visite degli amici erano per me una grande gioia e tutti lo sapevano. A volte, la mattina, quando mancava poco alla fine di uno dei lunghi safari di Dennis Finch Hatton, trovavo davanti alla casa un giovane Masai in piedi, appoggiato a una di quelle sue gambe lunghe e snelle. Bedar sta per tornare, annunciava. Fra 2 o 3 giorni sarà qui. Il pomeriggio arrivava il toto di qualche squatter che abitava al confine della fattoria. Seduto sul prato aspettava di vedermi uscire. «C'è uno stormo di faraone giù alla curva del fiume», diceva scorgendomi. «Se vuoi prenderne qualcuna per bedare, al tramonto ti ci accompagno e te le faccio vedere». Per i miei amici vagabondi la fattoria aveva un fascino, credo, perché era sempre là, sempre uguale, ogni volta che tornavano. Dopo aver attraversato regioni sconfinate, dopo aver montato le tende tante volte, erano felici di passeggiare nel viale di casa mia, immutabile come l'orbita di una stella. Erano felici di ritrovare soltanto facce conosciute. Io non ho mai cambiato domestici durante tutto il periodo trascorso in Africa. Io, rimasta alla fattoria, sognavo solo di partire, mentre loro tornavano ogni volta col desiderio di libri, lenzuola di lino, della grande stanza fresca con le persiane abbassate. Accanto ai loro fuochi, nell'accampamento, avevano sognato le gioie della vita domestica. Appena giunti mi chiedevano ansiosamente: «Ha insegnato al cuoco l'omelette alla chasseur? Sono arrivati i dischi di Petrushka?» Venivano ad abitare alla fattoria anche in mia assenza se mi trovavo in Europa. Dennis poteva installarsi in casa a suo piacere. Il mio ritiro silvestre la chiamava Berkeley Call. In cambio dei beni della civiltà, i viaggiatori mi portavano i trofei delle loro cacce. Per compiacerli, quando restavo sola, studiavo ricette rare in vecchi libri di cucina e cercavo di far crescere fiori europei nel mio giardino. Una volta in Danimarca, una vecchia signora mi regalò 12 bei bulbi di peonia. Fu un guaio portarli alla fattoria perché era proibito importare certi fiori. Appena piantati, misero subito bei germogli rosso scuri ricurvi. Poi comparvero le foglioline delicate e i boccioli rotondi. Il primo fiore sbocciato si chiamava Duchesse de Nemours. Una sola grande peonia bianca, nobile e rigogliosa, piena di profumo, dolce e fresco. Quando la colsi per metterla in un vaso nel mio salotto, tutti i bianchi che entravano nella stanza si fermavano ad ammirarla. Che sorpresa! Una peonia! Ma gli altri germogli appassirono e caddero, non ebbi più fiori da quelle piante. Qualche anno dopo accennai alle peonie al giardiniere inglese di Lady Macmillan, Akiromo. Non abbiamo mai potuto coltivarle in Africa, mi disse, né le potremmo coltivare finché non riusciremo a ottenere il fiore di un bulbo importato per ricavarne poi i semi. Così abbiamo fatto per trapiantare i ranuncoli qui in colonia. Dunque mi si era offerta la possibilità di introdurre le peonie in Africa. Il mio nome sarebbe divenuto immortale, proprio come quello della Duchesse de Nemours, in persona. E invece, cogliendo il mio unico fiore e mettendolo nel vaso, avevo distrutto la mia gloria futura. Ho sognato spesso la peonia bianca. Nel sogno la vedevo crescere ed ero felice perché, dopo tutto, non l'avevo colta. Ricevevo visite da altre fattorie e dalla città. Hugh Martin dell'ufficio territoriale veniva da Nairobi per tenermi compagnia. Uomo brillante, conoscitore della letteratura più raffinata, non aveva mai abbandonato il suo comodo posticino nel servizio civile d'Oriente. Là, fra l'altro, gli si era sviluppato il dono già innato di rassomigliare a un enorme, obeso idolo cinese. Per lui io ero Candide e per me lui una specie di strano dottor Pangloss della fattoria, placidamente ma fermamente convinto dell'inferiorità e spregevolezza della natura umana e dell'universo e soddisfatto della sua fede, perché infatti avrebbe dovuto essere diversamente. Una volta sprofondatosi in una poltrona, non si muoveva più. La bottiglia e il bicchiere a portata di mano, un'espressione di gioia pacata, sciorinava una dopo l'altra le sue teorie sulla vita, traboccando di idee come una fantastica, rapida, fosforica proliferazione di materia e pensiero. Un grassone in pace con il mondo e incline a fidar nel demonio con il marchio di lindura. Proprio spesso più dei discepoli di Lucifero che di quelli del Signore. Il giovane Gustav Mohr, norvegese dal gran naso, mi piombava all'improvviso in casa di sera, direttamente dalla sua fattoria, situata dall'altro lato di Nairobi. Ottimo agricoltore, mi fu eccezionalmente utile, con i consigli e i fatti. Nei lavori della piantagione, pronto ed energico, come fosse pacifico e doveroso che da agricoltori e da scandinavi faticassimo l'uno per l'altro. Eccolo arrivato sull'abbrivio del suo spirito di ebollizione, come un pezzo di lava piovuto da un vulcano. C'era da diventare matti, diceva, in un paese dove un poveraccio doveva vivere parlando di bovi e di fibre vegetali. La sua anima era affamata, proprio non ce la faceva più. Dal momento in cui entrava in casa fino a notte inoltrata, proseguiva le sue concioni sull'amore, il comunismo, la prostituzione, Hamsun, la Bibbia, avvelenandosi nel frattempo con un orribile tabacco. Quasi non toccava cibo, non ascoltava. Se cercavo di dire una parola, si metteva a gridare, divorato dal fuoco che gli bruciava dentro, dando cozzi nell'aria con la sua testa bionda e selvaggia. Era stracolmo di cose che doveva assolutamente dire, più parlava, più gliene venivano. Poi di colpo, alle 2 del mattino, pareva svuotato. Allora se ne stava seduto tranquillo, l'espressione umile di un convalescente nel giardino dell'ospedale. Poi si alzava e partiva in macchina di volata per ricominciare a vivere ancora una volta di fibre vegetali e buoi. Appena poteva allontanarsi qualche giorno dalla sua fattoria, dai suoi tacchini e dalle sue verdure di Nioro, anche Ingrid Lindstrom veniva a stare da me. Figlia e moglie di ufficiali svedesi, aveva la pelle chiara come l'anima. Lei e il marito si imbarcarono per l'Africa come se si recassero ad un picnic ed un'allegra avventura per far soldi alla svelta. Comprarono una piantagione di lino, perché a quell'epoca il lino costava 500 sterline la tonnellata, ma non passò molto che il lino di colpo scese a 40 sterline la tonnellata. Piantagione e macchinari non valevano più nulla. Ingrid allora, messasi di punta per riuscire a salvare la fattoria, per amore della sua famiglia, la trasformò in modo da poterci allevare galline e coltivare ortaggi, sgobbando come una schiava. Con la lotta le venne un attaccamento profondo per la terra, le vacche, i porci, gli indigeni e gli ortaggi che erano il suo pezzetto d'Africa. La sua passione divenne tanto grande e disperata che avrebbe venduto marito e figli pur di salvarla. Tante volte negli anni della sfortuna avevamo pianto insieme, una nelle braccia dell'altra, l'idea di dover perdere la nostra terra. Era una gioia quando veniva Ingrid. Aveva tutta la franca e insinuante giovialità di una vecchia contadina svedese e nella faccia, segnata dalle intemperie, i denti forti e bianchi di una valchiria ridente. Il mondo ama gli svedesi, appunto perché anche in mezzo alle loro disgrazie sono capaci di stringerselo tutto al seno e di mostrarsi così coraggiosi che la loro fama rifulge dappertutto. Ingrid aveva un vecchio cuoco kikuyu e un ragazzo di nome Chemosa. Costui l'aiutava nelle mansioni più diverse, occupandosi degli interessi della padrona con la passione e l'impegno che si dedica in genere alle cose proprie. Lavorava come uno schiavo nell'orto e nel pollaio e fungeva da governante per le 3 figlie di Ingrid. Era lui che le accompagnava e le andava a riprendere a scuola. Quando seppe che sarei andata a trovarli a Nioro, mi disse: Ingrid, Chemosa perse la testa, non si occupava d'altro, fece preparativi grandiosi. Per prima cosa tirò il collo a diversi tacchini, tanto la grandezza di Farah lo impressionava. Considerava l'averlo conosciuto, pare, il più grande onore della sua vita. Una volta venne a trovarmi la signora Darrell Thompson di Nioro, la conoscevo appena. Proprio in quei giorni aveva saputo dai medici che le restavano solo pochi mesi di vita. Avendo acquistato in Irlanda un pony costosissimo, per lei in morte come in vita i cavalli erano la bellezza suprema, la gloria dell'esistenza. Voleva telegrafare perché non venisse spedito, ma finì per decidere di lasciarlo in eredità a me. Non ci pensavo già più quando, circa 6 mesi dopo la sua morte, il pony Urbox fece la sua comparsa al gong. Si rivelò subito la creatura più intelligente della fattoria. Tarchiato, piuttosto vecchiotto, non era un bell'esemplare. Dennis Finchhatton lo sceglieva spesso per le sue cavalcate, ma a me non piaceva molto. Furbo e pieno di prudenza, sapeva il fatto suo. Riuscì, fra tutti i puledri lucidi e focosi, condotti per l'occasione dagli uomini più ricchi della nostra colonia, a strappare la vittoria nella gara di salto in onore del principe di Galles, a Cabete. Con quel suo sguardo mansueto e quella sua aria modesta, portò a casa sua una grossa medaglia d'argento. Dopo una settimana di ansie, destò ondate di ammirazione in famiglia e in tutta la fattoria. Raggiavamo di trionfo. Morì di malattia 6 mesi dopo. Sepolto davanti alla sua stalla, sotto i limoni, fu rimpianto da tutti. Per molto tempo continuammo a parlare di lui. Spesso veniva a cena da me il vecchio signor Bulpet, che a club chiamavamo zio Charles. Era un grande amico per me, una figura ideale, il gentiluomo inglese dell'epoca vittoriana, perfettamente a suo agio anche nella nostra. Aveva attraversato a nuoto l'Ellesponto, scalato per primo il Matterhorn. In gioventù, verso l'Ottanta, era stato l'amante della bella Otero. Si diceva che costei lo avesse rovinato e poi mandato a spasso. Mi pareva ogni volta di cenare con Armando Duval o il cavaliere Des Grieux in persona. Possedeva molti bei ritratti dell'Otero e ne parlava volentieri. Una volta a cena al Ngong gli dissi: «Ho visto che sono state pubblicate le memorie della bella Otero. Parla di lei?» «Sì», rispose, «parla di me, sotto altro nome però». «E che dice?» chiesi. «Boh, mi descrive come un giovane che per amor suo dissipò 100.000 dollari in 6 mesi, ma ebbe in cambio qualcosa di altrettanto valore». «E lei?» dissi ridendo. «Pensava davvero di aver avuto qualcosa che valeva altrettanto?» Rifletté un attimo prima di rispondere e poi dichiarò: «Sì, credo proprio di sì». Il giorno in cui compiva 77 anni, io e Dennis Finchhatton andammo a fare un picnic con lui in cima alle colline del Ngong. Seduti lassù ci trovammo a discorrere su cosa avremmo fatto se ci avessero offerto delle ali vere a patto di portarle per sempre. Le avremmo accettate o rifiutate? Il vecchio Bulpet contemplava l'enorme distesa sotto di noi, la verde pianura del Ngong e la valle del Rift a ovest, come pronto a spiccare il volo da un momento all'altro. «Io accetterei», disse, «accetterei senz'altro. È la cosa che mi piacerebbe di più al mondo». Rimase un momento sopra pensiero, poi soggiunse: «Se fossi una signora, però, forse ci penserei». Capitolo 7. Il nobile pioniere. Nei riguardi di Berkeley Cole e di Dennis Finchhatton, la mia casa era uno stabilimento comunista. Tutto in essa apparteneva anche a loro e i miei amici se ne inorgoglivano. Se uno di noi riteneva che mancasse qualcosa, provvedeva da sé. E si provvedevano a rifornire la mia casa di vini e tabacchi di finissima qualità e facevano venire per me dall'Europa libri e dischi. Berkeley arrivava dalla sua fattoria sul Monte Kenya con la macchina carica di tacchini, uova e arance. Volevano farmi diventare un'intenditrice di vini, come lo erano loro, e dedicarono molto tempo al tentativo. Avevano una passione per i miei bicchieri e le mie porcellane danesi. Spesso, finito di cenare, ammucchiavano i bicchieri uno sull'altro per il solo piacere di ammirare la bella piramide scintillante. Ogni mattina, verso le 11, quando stava alla fattoria, Berkeley si beveva un'intera bottiglia di champagne nel bosco. Una volta, prima di partire, dopo avermi ringraziato per i bei giorni passati insieme, osservò che una stonatura però vi era stata. Quando andava a bere sotto gli alberi gli portavano sempre bicchieri rozzi e grossolani. «Lo so», obiettai, «ma mi rimangono così pochi bicchieri belli. I ragazzi finirebbero di distruggerli se li portassero fin laggiù». Mi guardò serio, tenendomi la mano nella sua. «Già», disse, «ma era così squallido, cara». Da allora, anche quando andava nel bosco, ebbe sempre i miei bicchieri migliori. Strano a dirsi, sia Berkeley che Dennis, tanto profondamente rimpianti dai loro amici inglesi e tanto amati e ammirati là in colonia, erano due reietti. Non perché una società o un paese li avesse respinti, ma perché il loro tempo non li accettava. Non appartenevano al loro secolo. Inglesi fino alla punta dei capelli erano tuttavia esempi di atavismo, figli di un'Inghilterra primigenia, di un mondo ormai tramontato. Nell'epoca attuale non avevano patria, dovevano vagabondare qua e là e la fattoria era uno dei loro rifugi. Non se ne rendevano conto, al contrario, pativano di un senso di colpa per la vita lasciata in Inghilterra, come se proprio perché vi trovavano tanta noia, fosse un dovere a cui si erano sottratti, mentre i loro amici lo compivano. Si sentivano due disertori che prima o poi avrebbero dovuto scontare la loro testardaggine, ma in realtà erano due esuli che sopportavano con grazia l'esilio. Sarebbe bastata una parrucca dai lunghi riccioli di seta per fare di Berkeley un vero gentiluomo della corte di Re Carlo II. O anche uno di quegli agili giovani inglesi che sedevano ai piedi del vecchio D'Artagnan 20 anni dopo, ascoltando le sue sagge parole e facendone tesoro. Pareva stranamente immune dalla legge di gravità. Non mi sarei stupita se, mentre conversavamo, seduti accanto al fuoco, se ne fosse partito diritto diritto su per la cappa del camino. Sapeva giudicare la gente, senza illusioni, ma anche senza livore. Per qualche sorta di diavoleria, si mostrava particolarmente affascinante proprio con quelli che stimava di meno. Quando voleva, sapeva essere un buffone inimitabile, ma per avere uno spirito alla Congreve o alla Wycherley, en plein XXe siècle, non bastano più le doti di Congreve o di Wycherley, non basta quella luce interiore, quella grandiosità, quella disperata speranza. Spesso, se diventava troppo audace e arrogante, lo scherzo giungeva al patetico. Quando, eccitato e quasi traslucido per il vino, Berkeley partiva veramente con la lancia in resta, pareva di vedere sulla parete l'ombra del suo focoso destriero ingrandirsi e ingrandirsi e agitarsi sempre di più, finendo in un superbo e fantastico galoppo, degno di un discendente diretto del nobile Ronzinante. Ma quanto a Berkeley, il buffone insuperabile, solo nella sua vita africana, mezzo invalido, soffriva continuamente di cuore. Con la sua cara fattoria sul Monte Kenya, sempre più carica di ipoteche, sarebbe stato l'ultimo a riconoscere o temere quell'ombra. Piccolo, snello, capelli rossi, mani e piedi sottili, sempre eretto nel portamento, Berkeley aveva il gesto aggraziato del perfetto spadaccino, un modo d'artagnanesco di voltare la testa. Camminava senza far rumore, come i gatti, e come i gatti pareva avesse il dono di rendere tutto comodo e accogliente, di diffondere intorno a sé piacere e calore. Con la sua presenza sarebbe riuscito a farti sentire al sicuro, protetto, anche sulle rovine fumanti della tua stessa casa. Quando era contento pareva sempre sul punto di farle fusa, come un gattone. E quando stava male, la sua malattia non era solo triste e tormentosa, ma qualcosa di enorme, come la malattia di un gatto. Non aveva principi, ma una incredibile riserva di pregiudizi, come probabilmente tutti i gatti. Se Berkeley era un cavaliere dei tempi degli Stuart, Dennis sarebbe stato bene in un paesaggio della vecchia Inghilterra all'epoca della regina Elisabetta. Avrebbe potuto passeggiare sotto braccio con Sir Philip e con Francis Drake, e i gentiluomini d'allora l'avrebbero apprezzato moltissimo. Avrebbero visto in lui qualcosa dell'antichità di Atene, di quel mondo che sognavano e descrivevano nei loro libri. Atleta, musicista, amatore d'arte e buon sportivo, Dennis in realtà sarebbe stato bene in qualsiasi epoca. Sempre tout comme chez soi, fino all'inizio del XIX secolo. Sarebbe stato bene anche nel suo secolo se avesse trovato la sua vera patria. Dall'Inghilterra i suoi amici lo supplicavano di tornare facendo piani per il suo avvenire, ma l'Africa non lo lasciava andare. Di fronte al curioso, istintivo attaccamento che tutti gli indigeni avevano per Berkeley e Dennis e per pochi altri come loro, mi chiedevo se in un'altra epoca, in qualsiasi altra epoca, in realtà non sarebbero esistite fra i bianchi e la gente di colore un'intesa e una comprensione che noi ora, nell'era dell'industria, non potevamo raggiungere. Con la prima macchina a vapore, le strade delle razze umane si erano separate. Da allora non si sono riunite mai più. Vi era una piccola ombra nella mia amicizia con Berkeley. Jama, il suo giovane servo somalo, apparteneva a una tribù nemica della tribù di Farah, Per chi conosce l'attaccamento dei Somali al loro clan, le buie, indagatrici, desolate occhiate che i due si scambiavano da una parte all'altra della tavola mentre aspettavano di servirci la cena, non promettevano nulla di buono. Spesso, prima di andare a letto, ci chiedevamo cosa avremmo fatto la mattina dopo se li avessimo trovati entrambi, Farah e Jama, morti stecchiti con un pugnale nel cuore. Non vi era buon senso o paura che valesse nel loro odio. Non si scannavano solo per l'affetto e la devozione che potevano avere per Berkeley e me. Non ho il coraggio di dire stasera a Jama che ho cambiato idea, confessava Berkeley, e che non andiamo più a Eldorate, dove abita la ragazza della quale è innamorato. Se si inasprisce e non prova più affetto per me, non si preoccuperà più di spazzolare i miei vestiti e andrà di filato ad ammazzare Farah. Jama, però, non perse mai il suo affetto per Berkeley. Erano stati insieme per molto tempo e Berkeley spesso parlava di lui. Una volta, pare, pretendeva a tutti i costi di avere ragione a proposito di non so cosa. Berkeley perse il controllo e gli tirò un pugno. E lui, sai cosa fece, cara? Me lo restituì all'istante. E come finì? Chiesi. Oh, finì bene, rispose Berkeley modestamente. Ci voleva poco, a 20 anni meno di me. L'incidente non aveva lasciato traccia né nel padrone né nel domestico. Come quasi tutti i servi somali nei riguardi di Berkeley, Jama si mostrava pacato e un po' protettivo. Quando Berkeley morì, Jama non volle restare nel Kenya e se ne tornò in Somalia. Berkeley aveva un grande amore, mai soddisfatto, per il mare. Uno dei suoi sogni preferiti era che io e lui, quando fossimo diventati ricchi, avremmo comprato un dhow e ci saremmo messi a far commercio a Lamu, Mombasa e Zanzibar. I piani erano pronti, la ciurma c'era, ma ricchi non siamo diventati mai. Quando era stanco o non stava bene, Berkeley ricominciava a pensare al mare. Si affliggeva della propria follia per aver vissuto dovunque fuorché sull'acqua salata e a questo punto si metteva a bestemmiare. Un giorno ero in procinto di partire per l'Europa. Lo vidi in preda alle sue solite malinconie. Sarebbe stato bello, pensai, comprare due lanterne marinare, una da tribordo e una da portello, per appenderle davanti alla porta d'ingresso, e glielo dissi. Sì, mi piacerebbero, disse, così la casa sembrerebbe una nave, ma debbono avere navigato. A Copenaghen, in una bottega di attrezzi nautici vicino a un canale, comprai due grosse, pesanti lanterne di una vecchia nave che per anni aveva viaggiato nel Baltico. Le appendemmo ai due lati della porta, volta a levante. Era la direzione giusta, pensavamo. La terra, nella sua corsa attraverso l'etere, si lancia in avanti e non vi era pericolo di collisioni. Per Berkeley, quelle lampade furono una vera gioia. Spesso arrivava a casa mia molto tardi e generalmente correva forte, con la macchina. Ma se vedeva le lampade accese veniva su per il viale piano piano perché quelle due piccole luci, una rossa e l'altra verde, gli entrassero profondamente nell'anima, ridestando immagini lontane, reminiscenze di viaggi per mare. Gli pareva di avvicinarsi davvero a una nave silenziosa sull'acqua buia. Studiamo anche una specie di sistema di segnalazioni. Se una lampada era spenta o staccata, lui, dal bosco, sapeva di che umore fosse la padrona di casa o cosa lo aspettasse per cena. Berkeley, come il fratello Galbraith Cole e il cognato Lord Delamere, era uno dei primi coloni, un pioniere, amico dei Masai che allora spadroneggiavano nel paese. A quei tempi la civiltà europea, che nel profondo del cuore essi odiavano più di qualunque cosa al mondo, non aveva ancora troncato le loro radici. Ancora non erano stati costretti ad abbandonare la loro bella terra del nord. Berkeley parlava la loro lingua e spesso ricordavano insieme il passato. Quando era la fattoria, passavano il fiume per venire a trovarlo. I vecchi capi gli raccontavano i loro guai, mentre lui, con il suo spirito, riusciva a farli ridere. Era come riuscire a far ridere una pietra. Con l'affettuosa fiducia che li legava a lui, dovendo celebrare una cerimonia solenne, scelsero come teatro la fattoria. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i Masai sentirono ribollire il loro antico sangue guerriero. Ebbero la visione di splendide battaglie e di grandi massacri e credettero di poter rivivere la gloria del passato. Per Per caso, i primi mesi di guerra, facevo servizio di rifornimento per conto del governo inglese con soli indigeni e somali. Ogni volta i nostri tre carri, trascinati dai buoi, dovevano passare per la riserva Masai. Appena informati del mio arrivo, correvano all'accampamento a farmi un'infinità di domande. Tutti eccitati sulla guerra e sui tedeschi, venivano veramente dall'aria. Già nella loro immaginazione si vedevano precipitarsi incontro al pericolo e alla morte. I giovani guerrieri la notte sciamavano intorno alla mia tenda, in pieno assetto di guerra, con lance e spade. A momenti, perché capissi con chi avevo a che fare, lanciavano un breve ruggito, un ruggito di leoni. Erano sicuri di poter combattere. Ma il governo inglese non ritenne prudente organizzarli e mandarli contro dei bianchi, sia pure tedeschi. Tutte le loro speranze svanirono. I Kikuyu venivano assunti nei servizi di rifornimento, ma ai Masai era proibito toccare armi. Nel 1918, però, volendo irreggimentare tutti gli indigeni della colonia, il governo decise di richiamare anche i Masai e mandò a Narok un ufficiale del CAR con il suo reggimento per accogliere 300 soldati Morani. Ma oramai i Masai non volevano più saperne di quella guerra e si rifiutarono di seguirlo. I Morani del distretto si dileguarono nei boschi e nelle macchie. Nel tentativo di scovarli, le truppe del CAR spararono per errore su una maniatta, uccidendo due vecchie donne. 2 giorni dopo, la riserva Masai era in aperta rivolta. Frotte di Morani cominciarono a battere il paese, uccidendo parecchi mercanti indiani e bruciando più di 50 dukas. La situazione era seria e il governo non volle forzare la mano. Mandarono Lord Dellamire a trattare con i Masai e finalmente si giunse a un compromesso. I 300 Morani potevano tornare liberamente. Dovevano però pagare una multa collettiva per le devastazioni compiute. Nessuno di loro si fece vivo, ma poco dopo, con l'armistizio, la cosa fu messa per sempre a tacere. In quello stesso periodo, alcuni grandi e vecchi capi Masai avevano prestato aiuto all'esercito inglese, sguinzagliando spie nella riserva e sul confine per osservare i movimenti dei tedeschi. Finita la guerra, il governo volle offrir loro un riconoscimento dei servigi resi e fece mandare delle medaglie dall'Inghilterra. Berkeley, che era amico dei Masai e conosceva la loro lingua, fu incaricato di distribuirne 12 fra i guerrieri. Le mie terre confinavano con la riserva e Berkeley mi chiese se la cerimonia poteva venire celebrata alla fattoria. Il suo compito lo innervosiva un po', non si rendeva ben conto di quale parte dovesse recitare, mi disse. Finalmente, una domenica, ci recammo insieme nella riserva in automobile a invitare i capi della maniatta per il giorno fissato. Da giovane Berkeley era stato ufficiale del nono Lancieri, il più brillante ufficiale del suo reggimento, dicevano. E invece, mentre tornavamo a casa verso il tramonto, cominciò a parlare della mentalità e del mestiere dell'ufficiale in modo tutt'altro che militaresco. La distribuzione delle medaglie, pur nella sua limitata importanza, fu una cerimonia solenne e significativa. Tutti si comportarono con tanta saggezza, discrezione e sagacia che acquistò il valore di un atto storico o di un simbolo. Sua oscurità e suo splendore si scambiarono un saluto di perfetta cortesia, citando. I vecchi Masai, circondati dallo stuolo dei cortigiani e dei figli, si sedettero ad aspettare sul prato, discutendo delle mie vacche che pascolavano lì vicino. Forse in ricompensa dei loro servigi speravano di averne una in dono. Berkeley li lasciò aspettare un pezzo. Ai loro occhi, probabilmente, ciò rientrava nell'ordine naturale delle cose. Quando finalmente uscì, dopo aver fatto portare sul prato davanti a casa una poltrona per sedersi durante la cerimonia, in quella scura compagnia, con i suoi capelli rossi e gli occhi chiari, pareva una chiazza di luce. In quel momento aveva il portamento e il tratto vivace e cordiale di uno zelante giovane ufficiale. Capì allora come, quando era necessario, sapesse rendersi di una vacuità assoluta la sua faccia di solito tanto espressiva. Lo seguiva a Giama con la scatola delle medaglie e un bel panciotto arabo tutto ricamato in argento e oro che Berkeley gli aveva permesso di comprare per l'occasione. Berkeley pronunciò il suo discorso in piedi davanti alla poltrona. La sua piccola figura snella e diritta aspirava tanta energia che i vecchi, uno per uno, si alzarono e rimasero in piedi di fronte a lui, guardandolo negli occhi gravemente. Che cosa disse non lo so, perché parlò in Masai. Probabilmente spiegava il valore della straordinaria onorificenza concessa loro in premio del mirabile comportamento, ma dato che era Berkeley a parlare e che il viso dei Masai appariva impenetrabile, il contenuto poteva essere completamente diverso da quello che immaginavo. Finito il discorso, si fece immediatamente consegnare la scatola da Giama e cominciò a tirar fuori le medaglie. Solennemente, uno per uno, lesse i nomi dei capi Masai. Porgeva loro l'onorificenza con un gesto ampio del braccio e i Masai la prendevano con la mano tesa, senza dir nulla. Se l'uno e gli altri fossero stati di nobile e antico lignaggio, la cerimonia non avrebbe potuto essere più solenne, e questo senza voler offendere la democrazia. Non è molto comodo dare una medaglia a un uomo nudo, non c'è dove attaccarla. I vecchi capi Masai continuavano a tenerla in mano. Uno di loro a un tratto mi si avvicinò e, porgendomi la sua medaglia, mi chiese di dirgli che cosa vi era inciso. Cercai di accontentarlo come potevo. Era una medaglia d'argento. Su un lato recava l'immagine della Britannia e sull'altro la frase la grande guerra per la civiltà. Alcuni amici inglesi a cui raccontai l'episodio mi chiesero come mai non portava incisa la testa del re. Secondo loro era un grave errore. Io non sono d'accordo. Per me le medaglie non devono essere troppo belle e la cerimonia fu perfetta. Chissà se la nostra grande ricompensa in cielo, quando ci toccherà, non sarà proprio come quella. Quando Berkeley si ammalò, ero in procinto di prendere delle vacanze in Europa. In quel periodo faceva parte del consiglio legislativo della colonia e gli mandai un telegramma. Vieni a Hangong per riunire consiglio, stop, porta bottiglie. Mi rispose con un altro telegramma. Tuo telegramma, messaggio celeste, stop, arrivo con bottiglie. Ma quando arrivò alla fattoria con la macchina piena di bottiglie, non aveva nessuna voglia di bere, era molto pallido e spesso stava a lungo senza aprire bocca. La sua malattia di cuore andava aggravandosi e Giama, che aveva imparato a fargli le iniezioni per sostenerlo, lo assisteva giorno e notte. Le sue preoccupazioni contribuivano a rendere più serio il suo stato. Viveva nel terrore di perdere la fattoria. Eppure la sua presenza bastò a fare della mia casa un angolo eletto, piacevole e caro nel mondo. Sono arrivato al punto, Tania. Mi disse gravemente che posso viaggiare solo nelle automobili di lusso, fumare solo sigari di lusso e bere vini pregiati. Una sera seppi che il medico gli aveva consigliato di mettersi a letto per un mese. Se era disposto a farlo, a restare a letto per un mese al Ngong, gli dissi, avrei rinunciato al mio viaggio per curarlo. Sarei andata in Europa l'anno dopo. Rifletté prima di rispondere. Mia cara, rispose, non posso. Se lo facessi per accontentarti, cosa sarebbe di me dopo? Lo salutai col cuore stretto. Durante la traversata non smettevo di pensare a lui mentre il nostro Dao passava Lamu e Takaunga. A Parigi mi giunse la notizia della sua morte. Era stramazzato per terra davanti a casa sua mentre scendeva dalla macchina. Fu sepolto nella sua fattoria, come aveva sempre desiderato. Con la sua scomparsa qualcosa mutò da noi. I suoi amici lo sentirono subito, rattristandosi profondamente. Gli altri se ne accorsero piano piano. Con lui finiva un'epoca nella storia della colonia. Più tardi quella data divenne un punto di riferimento per molte cose. Dicevamo quando era vivo Berkeley Cole o dopo la morte di Berkeley Cole. Fino alla sua morte il paese era stato il paradiso della caccia. Ora veniva lentamente cambiando, diventava una terra da sfruttare. Molte cose con la sua scomparsa non poterono più mantenersi ad alto livello. Lo spirito, e si notò subito, cosa triste in una colonia, il coraggio, la gente cominciò a parlare dei propri guai, l'umanità. Quando Berkeley uscì di scena, una figura sinistra fece il suo ingresso dalla quinta opposta, la dure nécessité maîtresse des hommes et des dieux. Stranamente, finché gli era bastato il fiato per vivere, un uomo piccolo e tutt'altro che robusto era riuscito a tenerla fuori dalla porta, la dura necessità. Ma ora il pane della terra aveva perduto il suo lievito. una presenza di grazia, gaiezza e libertà, un catalizzatore. Era scomparso. Un gatto si era alzato e aveva lasciato la stanza. Capitolo 8. Ali. Dennis Finch Hatton non possedeva altra casa in Africa che la mia fattoria. Là viveva fra un safari e l'altro, là teneva i suoi libri e il suo grammofono. Al suo arrivo la fattoria metteva in mostra tutta se stessa, diveniva parlante, come son parlanti le piantagioni di caffè, quando ai primi acquazzoni, tutte stillanti, si coprono di fiori come di una nube di gesso. Allorquando, aspettando il suo ritorno, sentivo la macchina salire su per il viale, udivo, al tempo stesso, tutte le cose cantare la loro verità. Dennis era felice da noi. Veniva solo quando ne aveva voglia e la fattoria gli conosceva una qualità che il resto del mondo ignorava, la capacità di essere umile. Fece sempre soltanto ciò che desiderava fare e disse sempre soltanto ciò che aveva in cuore. Verrà un tratto del suo carattere per me veramente prezioso. Amava sentir raccontare. Io, per parte mia, avrei dovuto nascere ai tempi della peste in Firenze. Ora i gusti sono mutati, si è perduta l'arte dell'ascoltare in Europa. Gli africani la posseggono ancora perché non sanno leggere. Appena principi a dire, un tale camminava nella pianura e incontrò un altro, subito pendono dalle tue labbra, subito la loro fantasia insegue con slancio la pista sconosciuta dei due uomini sulla pianura. Ma i bianchi non sono più capaci di prestare orecchio a un racconto, nemmeno se sentono che è loro dovere. Divengono irrequieti, si ricordano di mille incombenze da sbrigare proprio in quel momento, se addirittura non si addormentano. Le stesse persone, invece, sono capaci di cercare qualcosa da leggere e di trascorrere tutta la sera immerse nella lettura di un qualsiasi pezzo di carta stampata. Riescono persino a leggere i discorsi. È l'abitudine di cogliere le cose solo con gli occhi. Dennis, che era molto sensibile alle impressioni uditive, preferiva sentir raccontare una storia piuttosto che leggerla. Quando veniva alla fattoria mi chiedeva: «C'è una storia per me?» Io ne avevo preparate tante durante la sua assenza. La sera, disposti tutti i cuscini davanti al caminetto, si approntava una specie di divano e mentre io sedevo sul pavimento, le gambe incrociate come Scheherazade, lui stava lì sdraiato, attento ad ascoltare i miei lunghi racconti, dal principio alla fine. Seguiva il filo molto meglio di me. A volte, alla drammatica riapparizione di un personaggio, mi interrompeva per dirmi: «Questo è morto al principio, ma non importa». Mi insegnò a leggere il latino, la Bibbia e i poeti greci. Sapeva a mente lunghi brani del Vecchio Testamento e si portava sempre dietro la Bibbia nei viaggi, incutendo così grande rispetto ai maomettani. Fu lui a regalarmi il grammofono che arricchì di nuova vita la mia casa e divenne per me una vera gioia, quasi la voce della fattoria. L'anima di una radura è l'usignolo. Talvolta giungeva all'improvviso mentre mi trovavo nei campi di caffè o di grano turco, portava dischi nuovi. Quando tornavo a cavallo al tramonto, la musica mi veniva incontro nell'aria fresca della sera, annunciandomi il suo arrivo. Pareva che, come tante altre volte, gli stesse ridendo di me. Gli indigeni amavano il grammofono, venivano spesso intorno a casa per sentirlo. Alcuni avevano i loro dischi preferiti e quando restavamo soli alla fattoria mi pregavano sempre di suonarli. Cosa strana, la passione di Camante fino all'ultimo giorno fu l'adagio in sol maggiore del concerto per pianoforte di Beethoven. La prima volta non riuscivo a capire dalla sua descrizione che musica desiderasse sentire. Dennis e io però non avevamo gli stessi gusti. Io amavo i classici, mentre Dennis quasi volesse gentilmente compensare il suo disaccordo col proprio secolo, preferiva sempre quanto vi fosse di più moderno. Amava la musica d'avanguardia. Sì, Beethoven mi piacerebbe, diceva, se non fosse volgare. A Dennis Finch Hatton devo il piacere forse più emozionante della mia vita alla fattoria. Con lui ho volato sull'Africa, dove le strade sono rare o non esistono affatto e si può atterrare sulle pianure. Volare diventa una cosa di vitale importanza, apre un mondo ignoto. Col Moth di Dennis potevamo atterrare a pochi minuti da casa. Vi andavamo quasi ogni giorno. Visto dall'alto, il panorama degli altipiani è stupendo. Luci e colori sorprendenti, mutevoli, l'arcobaleno sulla terra verde piena di sole, gigantesche nubi verticali e violenti temporali neri, tutto ti danza intorno. Nembi di pioggia sferzante sbiancano l'aria di sghembo. Le parole non bastano a descrivere l'emozione di quel volo. Bisognerebbe inventarne di nuove. Sorvolare la valle del Rift e i vulcani di Suswa e Longonor. È come fare un viaggio nell'aldilà, come scoprire l'altra faccia della luna. Si può, al contrario, volare tanto vicino alla terra da scorgere gli animali nelle pianure. Si prova allora un'emozione simile, forse, a quella che provò Iddio dopo averli creati, quando ancora non aveva incaricato Adamo di trovar loro un nome. Ma non è ciò che si scorge a renderci felici. La gioia inebriante di chi vola è il volo stesso. La gente di città è schiava e priva di un grande bene. Deve muoversi sempre in una sola dimensione, camminare lungo la linea come se fosse legata per una fune. Già passeggiare per i campi o per i boschi significa passare dalla linea al piano ed è una liberazione grandiosa come la rivoluzione francese. Ma nell'aria si gode a piena libertà delle tre dimensioni, dopo lunghi secoli di esilio e di sogni. Il cuore nostalgico si getta fra le braccia dello spazio, le leggi della gravità e del tempo. Ogni volta che salgo su un aeroplano e guardando giù mi rendo conto di essere libera dalla terra, ho il senso di una nuova grande scoperta. Ecco, penso, questa era l'idea. Ora capisco tutto. Un giorno Dennis ed io ci spingemmo fino al lago Natron, situato a 150 km a sud-est della fattoria e oltre 1000 metri più in basso, a 600 metri sul livello del mare. Ne estraggono la soda, il fondo e tutte le sponde di una specie di cemento biancastro, mandano un odore acido, forte e salino. Il cielo era limpido. Ma passando dagli altipiani alla regione più bassa, pietrosa e spoglia, tutti i colori sembravano arsi. Il paesaggio sotto di noi pareva il guscio variegato di una tartaruga. Nel bel mezzo di tutto questo, all'improvviso, appare il lago. Visto dall'alto, il fondo bianco, scintillante, attraverso l'acqua, crea una tinta azzurra incredibile, irreale, di una luce accecante. Lo specchio del lago è come una grande, luminosa acqua marina in quella terra squallida e brunastra. Avevamo volato sempre in alto, ma ora scendemmo. La nostra ombra, azzurra, scura, fluttuava sotto di noi sul celeste chiaro della superficie brulicante di fenicotteri. Non so come facciano a vivere in quell'acqua estremamente salina. Pesci non ce ne sono. Al nostro avvicinarsi si sparpagliarono in grandi cerchi o a ventaglio come raggi del sole al tramonto, come un delicato disegno cinese su seta o porcellana, sempre diverso dinanzi a noi. Atterrammo sulla spiaggia bianca, infiammata come una fornace. Mangiammo lì, riparandoci dal sole sotto l'ala dell'aeroplano. Scottava così forte da far male se solo si allungava la mano fuori dall'ombra. Le bottiglie di birra deliziosamente fresche al momento dell'atterraggio, come noi venivano direttamente dall'etere, di lì a un quarto d'ora il tempo nemmeno di finire di mangiare erano diventate calde come tazze di tè. Stavamo mangiando quando comparve un gruppo di guerrieri, Masai, che avanzò rapidamente verso di noi. Probabilmente dopo aver spiato l'apparecchio di lontano avevano voluto vedere di che si trattasse. I Masai sono capaci di camminare per ore anche in una terra così ostile. Venivano avanti in fila indiana, nudi, alti e sottili, con le armi scintillanti, scuri come la torba sulla sabbia giallo-grigia, accompagnati dalle piccole gore delle loro ombre, le uniche ombre visibili all'orizzonte, oltre alle nostre. Giunti a pochi passi, si schierarono davanti a noi. Erano in cinque, con le teste accostate, cominciarono a parlottare fra loro dell'aeroplano e di noi. Una generazione prima l'incontro ci sarebbe stato fatale. Uno di loro finalmente si fece avanti e disse qualcosa. Sapevamo ben poco di Masai e loro non parlavano altra lingua. La conversazione morì subito. Il guerriero tornò fra i suoi compagni e di lì a pochi istanti, voltandoci le spalle, si misero in cammino in fila indiana verso la vasta bianca distesa di sale bruciante. Ti piacerebbe andare a Naivasha? Chiese Denis. Bisogna attraversare una zona molto aspra, però, e non si può atterrare. Dobbiamo volare molto in alto, mantenendoci sui 4.000 metri. Nel volo dal lago di Natron a Naivasha non facemmo deviazioni e restammo sempre sui 4.000 metri. A quell'altezza non vale la pena di guardar giù. Al lago Natron mi ero tolta il berretto, foderato d'agnello. Ora l'aria mi serrava la fronte, fredda come acqua ghiacciata. Il vento mi tirava per i capelli come avesse voluto scotennarmi. Era quello il percorso che la Rock seguì all'inverso quando un elefante in ciascun artiglio per i suoi piccoli tornò veloce, sferzando l'aria dall'Uganda in Arabia. Seduti nel sedile anteriore, avendo dinanzi soltanto lo spazio infinito, si ha la sensazione che il pilota ci porti sul palmo della mano nell'aria, come Jin portò il principe Ali. Le ali che ci sostengono sono le sue ali. Atterrammo a una fattoria di amici a Naivasha. Le case assurdamente piccole e gli alberi minuscoli intorno parevano schiacciati contro il terreno mentre scendevamo. Quando non avevamo tempo per viaggi lunghi, Denis ed io verso il tramonto andavamo spesso a fare un giro sulle colline del Gong. Queste colline, fra le più belle del mondo, si svelano in tutto il loro splendore, solo viste dall'alto. Quando i crinali, nudi verso le quattro cime, salgono e corrono a fianco dell'aeroplano o scendono di colpo in una piccola spianata erbosa. Lassù vagavano i bufali. I primi tempi, quando non potevo vivere se non avevo ucciso almeno un esemplare di ogni tipo di selvaggina africana, ci trovai persino un toro. In seguito, non più tanto smaniosa di uccidere le belve quanto di contemplarle, tornai diverse volte. Mi accampavo con domestici, tende e provviste vicino a una sorgente a mezza strada dalla cima. In quei mattini bui e freddi, io e Farah, alzandoci all'alba, ci addentravamo fra i cespugli e l'erba alta nella speranza di intravedere il branco, ma per due volte dovetti tornare indietro delusa. Era un vanto per la fattoria avere per vicini quei bufali ad ovest, anche se come vicini erano riservati e boriosi, vecchia nobiltà poco incline a ricevere visite. Un pomeriggio stavo prendendo il tè davanti a casa con alcuni amici quando vedemmo giungere da Nairobi l'aereo di Denis. Passò sopra di noi dirigendosi verso ovest, ma poco dopo girò, tornò indietro e venne ad atterrare alla fattoria. Quando Lady Delamere ed io gli andammo incontro con la macchina sulla pianura, non volle scendere dall'aereo. «I bufali stanno pascolando sulle colline», disse. «Vieni a vedere!» «Non posso», risposi. «Sono venuti degli amici a prendere il tè». Andiamo e torniamo in un quarto d'ora, insistette. Mi parve una di quelle proposte che capitano soltanto in sogno. Lady Delamere non volle venire e andammo noi due soli. Volavamo nel sole, ma il versante della collina era immerso in una bruna ombra trasparente in cui ben presto ci tuffammo, anche noi. Improvvisamente dall'alto li scorsi. Erano 27 bufali. Stavano pascolando su uno di quei verdi crinali che corrono lungo i fianchi della collina per ricongiungersi sulla vetta come le pieghe di un vestito. Da principio, lontanissimi sotto di noi, parevano topi che si muovessero con cautela sul pavimento di una stanza. Calammo rapidamente, volteggiando in lungo e in largo sul crinale, fino ad appena 50 metri di altezza. Ci trovavamo ormai a un tiro di schioppo, potevamo contarli. Mentre in gran quiete si ricongiungevano al branco o se ne distaccavano. Ve n'era uno vecchissimo, grande, nero, e altri più giovani e giovanissimi. Tutti intorno cespugli proteggevano l'ampio pascolo erboso. Se qualcuno si fosse avvicinato da terra ne avrebbero inteso il rumore o fiutato l'odore, ma non si aspettavano un attacco dall'aria. Dovevamo continuare a volteggiare sopra di loro. Sorpresi dal fracasso del motore, cessarono di pascolare, ma pareva non avessero l'istinto di guardare in alto. Si accorsero alla fine che stava avvenendo qualcosa di molto strano. Il vecchio bufalo dette il via e tutto il branco lo seguì. Le quattro zampe piantate per terra, alzò le corna, dovevano pesare almeno mezzo quintale, sfidando il nemico nascosto. Poi, d'improvviso, si slanciò, prima trottando, poi addirittura al galoppo. Tutto il clan lo seguì, correndo all'impazzata. Andarono ad ingolfarsi fra i cespugli, sollevando un nugolo di polvere e di sassi. Arrivati nel folto, si fermarono, radunandosi tutti insieme. Parevano un pavimento di pietre grigie in una radura fra le colline. Lì si credevano al riparo e lo erano, per ogni minaccia venuta dalla terra, ma non potevano fuggire lo sguardo dell'uccello dell'aria. Prendemmo quota e ci allontanammo. Per una via segreta e ignota eravamo penetrati nel cuore delle colline del Gong. Quando tornai al mio tè, il bricco sulla tavola di pietra era ancora così caldo che mi scottai le dita. La stessa esperienza ebbe il profeta quando rovesciò la brocca d'acqua calda e in quello stesso istante fu sollevato in aria dall'arcangelo Gabriele che lo fece volare con sé per i sette cieli. Al ritorno l'acqua non si era ancora versata. Nelle colline del Gong viveva anche una coppia di aquile. Andiamo a trovare le aquile, diceva Denis il pomeriggio. Una volta ne scorsi una nel lato di spiccare il volo da un masso di in cima alla montagna, ma era raro che scendessero a terra. Spesso provavamo a inseguirle. L'aeroplano si inclinava tutto prima su un'ala e poi sull'altra, e credo che quegli uccelli dalla vista lunga si divertissero a giocare con noi. Una volta, mentre ne inseguivamo una, Dennis spense di colpo un attimo il motore, e in quell'attimo sentì il grido dell'aquila. Gli indigeni ammiravano molto l'aeroplano. Per molto tempo alla fattoria tutti si divertivano a farne disegni. Ne trovavo sempre in cucina, su pezzi di carta, se non addirittura sui muri, con lettere ABAC copiate accuratamente. Ma non gli davano veramente grande importanza, come non davano importanza ai nostri voli. Gli indigeni provano per la velocità la stessa avversione che noi proviamo per il rumore. Nel migliore dei casi la ritengono una dura, inevitabile necessità, anche perché il tempo per loro è un amico e non hanno nessuna voglia di ingannarlo o di ammazzarlo. Così più tempo possono avere a disposizione e più sono contenti. Se dovendo fare una visita, preghi un kikuyu di badare al tuo cavallo, spera solo, glielo leggi in faccia, che la visita sia molto lunga. E una volta accettato l'incarico, non tenta di passare il tempo, ma se ne rimane lì, seduto, e vive. Non hanno gran simpatia, neppure per macchine e macchinari. Alcuni ragazzi della nuova generazione si erano lasciati prendere dall'entusiasmo degli europei per le motociclette, ma, diceva un vecchio Kikuyu, sarebbero morti presto. Probabilmente aveva ragione, perché i rinnegati discendono sempre dalla stirpe più debole nei popoli. Le invenzioni della civiltà che gli indigeni apprezzano di più sono i fiammiferi, le biciclette e i fucili. Ma anche codesti passano subito in seconda linea se solo devono discutere di una vacca. Frank Greswold Williams, della valle del Kedong, condusse seco in Inghilterra un Masai. Una settimana dopo il loro arrivo, mi raccontò, il giovane andava a cavallo per Hyde Park con un londinese nato. Quando tornarono in Africa, chiesi al Masai cosa gli fosse piaciuto di più in Inghilterra. Fattosi serio, rifletté a lungo prima di rispondere. Poi, con grande cortesia, disse che i bianchi costruivano ponti veramente belli. I vecchi Masai provano solo sfiducia o quasi vergogna per ogni ordigno che si muova da solo, senza apparente intervento dell'uomo o delle forze della natura. La stregoneria, per la mente umana, ha qualcosa di indecente. Ed essa ne distoglie lo sguardo. Pur non potendo ignorarne gli effetti, preferisce non sapere nemmeno come avvenga. Nessuno ha mai tentato di strappare ad una strega la ricetta dei suoi infusi. Una volta Dennis ed io, dopo un lungo volo, stavamo atterrando sulla pianura della fattoria quando ci si avvicinò un vecchio kikuyu. Siete andati molto in alto oggi? Disse. L'aeroplano non si vedeva più, si sentiva solo il ronzio come di un'ape. Sì, risposi, eravamo arrivati molto in alto. Avete visto Dio? Chiese. No, Nduetti, risposi, non l'abbiamo visto. Ah, Allora non siete saliti abbastanza in alto. Ma dite, sperate di riuscire ad arrivare tanto in alto da vederlo? Non so, Nduetti, dissi. E tu, Bedar, cosa credi? Insisté il vecchio rivolto a Denis. Ce la farà il tuo aeroplano a salire tanto in alto da vedere Dio? Davvero non lo so, rispose Denis. Allora, disse Nduetti, non capisco perché continuiate a volare.